Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, oggi parliamo ancora di musica e di storia. Dal 28 settembre, lo ricordo, torneremo con l'appuntamento tradizionale insieme a Mario Secchi e Pietrangelo Buttafuoco, i Faccia a Faccia, i Gialli della Storia, le inchieste e molte altre novità. Intanto però parliamo di musica e storia con Franco Schipani e Alessandra Fiori. Siamo nel 1977. Allora Franco, che musica ascoltiamo in quell'anno? Ancora lui, Giovanni, perché per il secondo anno consecutivo al top della hit parade italiana c'è... Amarsi un po' è come bere, più facile avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai. Impaurire no, no. Amarsi un po', Lucio Battisti. Ciao a tutti, sono Franco Schipani e sono in compagnia di... Alessandra Fiori, buongiorno a tutti. Ciao Alessandra. Ciao, siamo nel 1977, Franco, uno degli anni più duri dello scontro e della violenza politica nel nostro paese. Il terrorismo di sinistra ha un'impennata, 287 attentati, rivendicati da 77 sigle diverse. Ma questi, tra il 1977 e l'80, sono anche gli anni in cui l'attività delle Brigate Rosse raggiunge il culmine. Il 28 aprile a Torino viene ucciso Fulvio Croce, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, mentre il 1 giugno del 1977, con il ferimento di Vittorio Bruno, vice direttore del Secolo XIX, inizia la campagna contro i giornalisti. Una campagna che miete vittime in tutta Italia. A Roma viene colpito alle gambe Emilio Rossi, direttore del TG1. A Milano, il 2 giugno, è la volta di Indro Montanelli. Indro Montanelli era sicuramente una delle massime espressioni di questa, della stampa cosiddetta di regime. Quindi per noi era un'espressione molto precisa e molto visibile anche alle masse, tra virgolette, cioè alla popolazione che poteva ricevere, diciamo, il messaggio della nostra azione, e quindi pensavo fosse anche molto più condivisibile. Franco Bonisoli, che avete sentito, è uno dei brigatisti che sparò a Montanelli. In seguito il giornalista incontrerà in carcere i responsabili della sua gambizzazione. Non ho provato nessun odio e nessun rancore per i due che mi hanno gambizzato, perché ho capito che erano dei poveri ragazzi mandati lì da qualcuno a fare un brutto mestiere. E la cosa che poi a un certo momento mi incusse un certo rispetto è quando dopo li conobbi, e che alla fine finirono all'ergastolo poi, e gli chiesi, beh, dico, adesso sono passati tanti anni, ditemi, chi vi mandò? E questi due risposero con molta dignità, non ci mandò nessuno, ci venimmo noi. Dico, questo mi piace molto, che vi pigliate questa responsabilità. Gli sentiamo. Era Indro Montanelli che appunto commentava il suo attentato, l'attentato che aveva subito dalle Brigate Rosse nel 1977. Ma intanto, Franco, questo 1977 porta anche una grande novità nel sistema dell'informazione, dello spettacolo e immagino anche della musica italiana, perché il 24 febbraio la RAI ha iniziato a trasmettere a colori. A colori, però non tantissimi avevano in quel periodo la televisione a colori, te lo assicuro Alessandra, noi per vederlo dovevamo andare a casa dei vicini, ce n'era uno in tutto il condominio, si portavano le sedie, qualcuno portava da mangiare, insomma era molto molto molto divertente. E infatti diciamo che era una cosa che ci faceva riscoprire un po' anche bambini, trovarci tutti insieme in questi appartamenti. L'industria discografica nel 1977, a proposito di bambini, li scopre. Perché? Perché sono sempre loro i protagonisti dell'industria discografica. Quando fa il pieno di pieno, se no non stai in piedi, pure a cavallo del West, che beve solo caffè. Gloria Mal e poi My Name is Potato, il mio nome è patata, di Rita Pavone. Non male. Sai, guarda che Rita Pavone è andata al Led Sullivan Show, cioè dove sono stati i Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra. È andata, cioè, con My Name is Potato? È andata con un'altra canzone. E poi, sai una cosa, ho scoperto poi anni dopo che il personaggio più popolare negli anni 60 in America, italiano, era Topo Gigio. Il topo. Ma ti rendi conto? Cioè, tutti i bambini sapevano chi era Topo Gigio, ma anche gli adulti che erano cresciuti con Topo Gigio. Comunque, guarda, c'erano io dei cantanti. Comunque, Furia Cavallo del West. Ero appena nata, però me la ricordo. Quindi il bimbo marketing funziona. Funziona alla grande, anche perché in quel momento in Italia ci sono dei cantanti che riescono a far risvegliare il bambino che è in tutti noi. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Ridere, ridere, ridere ancora, ora la guerra paura non fa. Bruciano nel fuoco le divise la sera, brucia nella gola vino a sazietà. Questa atmosfera tra il medioevo e le feste di paese. Bella. Il professore. Prima c'era Angelo Branduardi con la Fiera dell'Est e poi Samarcanda, Roberto Vecchioni. Ma non è finita, Alessandra, perché il bambino che è in noi te lo ritrovi dove meno te lo aspetti. Adriano Celentano che canta in inglese. Pensa che Celentano ha sempre detto: uno dei miei più grandi errori, quello che ho fatto nella mia carriera, è stato di non andare in America negli anni 60 quando tutti quanti mi volevano. Però sai, un po' di paura dell'aereo, un po' del mercato, io mi sono sempre rifiutato e ho fatto male. Comunque lui, scusa, che canta ma in inglese, dai, eh? Lui, il re degli ignoranti, quello che ha fatto dell'inglese maccheronico motivo di vanto e di successo. Scusa, adesso canta in inglese, Franco. Canta in inglese, aspetta, ma aspetta, senti questa. Adriano Celentano che insiste. E poi c'erano i Mattia Bazar con Ma perché? Franco, scusa, io l'ho letta così. Celentano fa l'americano e i Mattia Bazar giustamente si chiedono ma perché? Questo è. Comunque del perché ne parleremo subito dopo la viabilità. Ma intanto io vi ricordo di scriverci le vostre impressioni sugli anni 70, i vostri ricordi, le vostre domande anche, mandando un SMS ovviamente al numero 349-238-6666 e con il 1977 torneremo subito dopo la viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24, musica e storia. perché? Ma perché si chiedono i Mattia Bazzara, Adriano Celentano si mette a cantare in inglese? Ma perché ha funzionato? Perché? È andato in classifica, ha venduto tantissimi dischi. Perché no, Alessandra? Perché no, hai ragione, Franco. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori, qui io con sono me. Franco Schipani, ciao. Ciao, stiamo raccontando il paese appunto attraverso la musica e la storia, in attesa che dal 28 settembre ritorni il classico Mix 24 con Minoli, Sechi e Buttafuoco. Ma intanto in Italia in questo 1977 a rimanere uno dei temi dell'economia italiana è la disoccupazione giovanile. Pensa che nel 77 i disoccupati totali, parlo del totale, sono 1.340.000, ma nell'ottobre del 2014, cioè solo l'anno scorso, erano 3.410.000. Comunque dopo quello del 68 nasce un nuovo movimento giovanile studentesco che è appunto quello del 77. Ma l'ottimismo rivoluzionario del 68 è lontano. E invece ad accomunare i gruppi del movimento del 77 c'è soprattutto la radicalizzazione esasperata. Per la prima volta, infatti, tra i dimostranti vengono utilizzate anche delle armi da fuoco. E intanto però continuano anche gli attacchi delle Brigate Rosse ai giornalisti. Ed è la volta di Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa. Viene colpito da 4 colpi di pistola alla testa. Casalegno muore dopo 13 giorni di agonia. È il primo giornalista ucciso dal terrorismo negli anni di piombo. Ci rendemmo conto che eravamo veramente molto in pericolo tutti quanti. C'era già stato, avevano già azzoppato Montanelli e altri giornalisti. E da quel momento io allora presi l'abitudine, avendo la scorta, di passare a prendere, se possibile, 2 dei vice direttori, Nerotti e Casalegno, e riaccompagnarli a casa. Noi dicevamo allora: si esce al mattino di casa e non sai se la sera rientri vivo o se rientri tutto intero, ecco, perché erano parecchi gli obiettivi, erano parecchie le persone che erano sotto tiro. Erano il direttore della Stampa, Arrigo Levi, e il sindaco di Torino, Diego Novelli. Eppure, sai Alessandra, in tutta questa storia veramente tremenda, recente, italiana, sembra che la musica viva in una sua propria dimensione, come in una bolla. Guarda che cosa si ascoltava all'epoca. She's crazy like a fool. What about daddy cool? I'm crazy like a fool. What about daddy cool? Sunny, sunny. Yesterday my life was still. Daddy's Cool and Sunny dei Bonnie M, mixati dal nostro Alessandro Chiappini, che si è proprio divertito oggi. E poi il disco Inferno. Chiappini, dovresti sapere che stiamo per arrivare, dopo tanto tonar, forse piove. È ok, allora. Franco, però scusami, scusa. Io adesso sono pezzi bellissimi, ballabili, memorabili, però sono un po' seriali. Ma non sono seriali, guarda che la disco music ha conquistato il mercato mondiale e dopo averlo conquistato che fa? Va a saccheggiare negli altri repertori. Don't let Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda con Gomez, Black is Black della Belle Époque, e poi questa versione di No Woman, No Cry dei Bonnie M. Va bene Franco, va bene Franco, hanno saccheggiato, ma grandi, l'hanno fatto con una certa classe, lo ammetto. Dice perché, fin di bene. Beh sì, dai, dai, milioni di dischi, milioni di dischi. Beh guarda, gli americani si sono inventati la disco music, poi sai, a un certo punto, perché? Perché sono riusciti ad avere dalla loro parte le matrici del funky, del blues, del soul e anche del rhythm and blues. Donna Summer per esempio alle spalle aveva Giorgio Moroder che gli ha fatto veramente da guida in questa traversata transoceanica, e poi era un arrangiatore incredibile. Ecco, vorrei adesso far sentire questi due pezzi a tutti i DJ di Ibiza. Tostissimi Kraftwerk con Trans Europa Express e poi Oxygen 4 di Jean-Michel Jarre. Che poi Franco nel 97 a Mosca, proprio un concerto di Jean-Michel Jarre, me lo ricordo, è una cosa pazzesca. È entrato nel Guinness dei primati, 3,5 milioni di spettatori. Cioè sei Woodstock insieme nella stessa piazza, pazzesco, incredibile. Pazzesco. Però non dirmi che nel 77 era un pezzo da classifica. Era un pezzo da classifica, questo e tanti altri, sembra strano ma è così, hanno venduto tantissimo e sono riusciti con queste loro sonorità a che fare? A influenzare tutto il mercato mondiale. Degli Space, I Feel Love di Donna Summer e Star Wars Team in Meco. Ti rendi conto che anche Guerre Stellari è diventato disco, Alessandra? Ma sì Franco, però dai, soprattutto è un successo cinematografico, inizia un'epoca con Guerre Stellari. Assolutamente. Però ti fermo perché ti vedo tutto emozionato, e invece ti fermo perché ne parliamo subito dopo il GR. Intanto vi ricordo sempre di scriverci e raccontarci i vostri anni 70 mandando un SMS al numero 349-238-6666 e con il 1977 ci vediamo subito dopo il GR. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori e io sono Franco Schipani, ciao. Ciao Franco, e come avrete ascoltato siamo nel 1977, l'anno di uscita di Guerre Stellari, Franco. È un periodo di guerra civile. Navi spaziali ribelli, colpendo da una base segreta, hanno ottenuto la loro prima vittoria contro il malvagio Impero Galattico. È l'inizio forse più popolare della storia del cinema, Alessandra, ma devi anche capire. Ma non guarda, in assoluto, ma tu sei seduto su una poltrona, hai sempre visto film, eccetera. A un certo punto, quando ti parte questa cosa da dietro, senti, boh, cioè, ti cambia il mondo, vedi lo spazio, cioè la storia è bella, ma noi siamo rimasti completamente annichiliti da questa tecnologia americana che da lì in poi, ragazzi, fino ai 3D, ai 4D, ai 5D, quelli che saranno, ci ha massacrati. Beh, ci ha anche fatto sognare. Ma in questo 1977, Franco, ci sono anche altri film senza effetti speciali. Per esempio, un film che ci ha fatto sognare, senza effetti speciali, è Una giornata particolare di Ettore Scola. Te ne devi andare, hai capito? Io non sono pure. Mai, mai mi devi credere. È la prima volta. La prima. Dimmi tu, Gabriele. Ti prego, dimmi. È importante. Gabriele. C'è una frase nel tuo album. L'uomo deve essere marito, padre e soldato. Io non sono né marito, né padre. L'uomo deve essere marito, padre e soldato, Franco, ma soprattutto dovrebbe essere Marcello Mastroianni, caro Franco. Comunque erano appunto Mastroianni e Sofia Loren in Una giornata particolare di Ettore Scola. Ma lo sai che in questo film c'è anche una giovanissima Alessandra Mussolini nel ruolo di Maria Luisa, la figlia della Loren? Invece chi ha voltato pagina e che è già avanti, sembrano già negli 80. Ti dico solo una cosa, Franco. Adriana. Rocky, il primo, 1977, l'inizio di un'altra grande saga che ci porterà, Franco, a Ti spiezzo in due. Ti spiezzo. Maynard Ferguson, grandissimo pezzo. Ricordo, ormai lo sanno tutti. A me, dovunque tu sia, senti questa cosa e sai che è Rocky. Comunque, in questo 77, Rocky conquista 3 Oscar, tra cui miglior film. Parliamo di disco music un attimino. C'è disco music e disco music. C'è quella che la fanno, che la copiano. Ci sono quelli che invece hanno un background strepitoso e si possono permettere di tutto. Tell Me Houston and I Wish di Stevie Wonder. Hai capito, Alessandra, che spessore che hanno queste canzoni? Ho capito. Hai capito, perché questa è gente che, a differenza di altri ragazzotti che vanno lì sul mixer e spingono qualche bottone, dietro hanno i cori della chiesa, gente che ha suonato al Cotton Club. Capisci perché capisco, è differente? Capisco, ma Franco, quello che voglio capire a questo punto è: ma questa disco ha il monopolio assoluto? Ma assolutamente no, non penserai vero che i rocchettari si siano ritirati in buon ordine. Allora io ho scelto due brani, ho chiesto ad Alessandro Cappini di prenderli e di mixarli. Vediamo che cosa ha combinato. Thank you. dal California agli Eagles con questa cosa di chitarra che sanno tutti ovviamente, poi Moonflower di Santana. Hai capito che cosa hanno prodotto nel 1977 i rockettari americani, Alessandra? Ho capito, Franco, e invece io sai dove ti porto in questo 1977? Dove? In Svizzera. Ma non c'è rock and roll. Ma ti porto lo stesso in Svizzera, Franco. In Svizzera, va bene, ok. Va bene, che succede in Svizzera in quel momento? Te lo racconto subito. Nel 1977, in Svizzera, con un referendum viene respinta la proposta di allontanare dal paese 250.000 lavoratori stranieri e di limitare le naturalizzazioni. Invece, caro Franco, proprio l'anno scorso la Svizzera si è espressa in modo completamente diverso, limitando gli ingressi nel paese. Quindi, in pratica, noi andiamo avanti e torniamo come tornare indietro, anzi più indietro di indietro nel tempo. Sembra proprio di sì, carissima, e non solo in Svizzera, perché nel 1977, da un punto di vista musicale, in Inghilterra sta succedendo di tutto, c'è addirittura il pre-punk. Però andiamo a vedere da noi sulla Hit Parade che cosa è arrivato quell'anno. But I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody to love. It's sad, so sad, with the sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Somebody to love, the Queen, and Sorry Seems to Be the Hardest Word di Elton John. Senti Franco, però in Italia non è che può esserci solo la disco oppure brani cantati in inglese. Assolutamente no, cara Alessandra, è stato un bell'anno per la nostra musica. Ma qui ti fermo. Lo sapevo. Lo sapevi? Ah, ok, ti che fermo succede? Sempre. Che succede? Perché adesso c'è la viabilità. Ma carità, ricordo sempre di scriverci il vostro racconto degli anni 70 al numero 349-238-6666 con un SMS naturalmente, e noi ci risentiamo con quest'anno meraviglioso che tu mi vuoi raccontare della musica italiana subito dopo la viabilità. Mix 24, musica e storia. E la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Ti Ti amo, Umberto Tozzi, solo tu, Mattia Basare, mi vendo, Renatino Zero. Renatino, mi vendo, te lo leggendario. Dico subito cosa si vende in questo 1977. Intanto bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori e io qui... sono Franco Schipani, ciao. Ciao, stiamo appunto raccontando il 77, mi vendo, Franco. Sai cosa si vende nel 77? Anzi, dal 77 se ne vendono tanti, tanti, tanti. Non ne ho più pallida idea, cosa si vende nel 77? Tante cose. Però fra? La mela di Steve Jobs, il primo personal computer accessibile a tutti. Ma figurati, noi non avevamo neanche la TV a colori in quel periodo. Però la televisione in bianco e nero ce l'avevi e quindi sicuramente seguivi questo programma. Coraggio. Portobello. Portobello. Portobello. Portobello. L'ha detto. L'ha detto, Franco, l'ha detto. Te lo ricordi? La musica di Portobello, la voce di Enzo Tortora, naturalmente. E il pappagallo che l'ha detto. Perché proprio nel 77 la RAI inizia a trasmettere Portobello. E invece... in questo 77 la RAI lo trasmette il Festival di Sanremo. Io mi ricordo di Portobello. Oddio, l'ha detto Portobello, l'ha detto Portobello. Era proprio la domanda della settimana. Tutti volevano sapere se era finalmente successo. Là, tu mi chiedevi. Ma io ti ho appena fatto la domanda della puntata. Ah, sì, la faccio sempre. Quindi. Sì, lo so, ormai guarda, il Festival di Sanremo è proprio arrivato agli sgoccioli perché il comune, le casse discografiche hanno sempre dei problemi che sono risolti. La RAI manda come al solito le prime due serate soltanto in radio. L'ultima serata viene trasmessa tutta, ma ormai con sofferenza degli ascoltatori, delle persone che lo producono. I big, gli unici che arrivano sono i Mattia Bazzare. E comunque i dischi non si vendono, Alessandro. Non si vendono. Però tu hai una certa passione per i Mattia Bazzare. Sono almeno due o tre puntate che ritorniamo sui Mattia. Ti piacciono? No, ma sai perché? Perché facendo queste scalette ho riscoperto i Mattia Bazzare. Ah, io li avevo sottovalutati. Lo vedi. Ho scoperto che avevano fatto tantissimi brani di successo. Io non li ricordavo così tanti. Questa passione si capisce. Comunque. Insomma, mi pare di capire che il Tempio Sanremo è finito. Quindi la melodia dicevi che era finita. La melodia, sì. Si agonizza, però c'è una melodia internazionale che gode di ottima salute. On a morning from a bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLore contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. The Cat, Hal Stewart, If You Leave Me Now, Chicago. E pensa, dopo questi meravigliosi brani, gli americani hanno trovato anche il tempo di scrivere, produrre, distribuire, far comprare questa canzone. Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning air. A Star is Born, è nata una stella, Barbara Streisand, che lo era già una stella, ma con questo brano, con questo film è diventato ancora più famosa. Anche perché aveva fatto Come eravamo, quindi era sicuramente una stella. Niente, ritorni sempre a Come eravamo, sempre a Robert Redford. Mi ha conquistato per la vita, Robert. Senti Franco, comunque, a parte i Mattia Bazzare, che abbiamo capito sono la tua passione al momento, ma a parte loro, ma da noi... Niente. Va bene, niente, cara niente. Alessandra, va bene. È il momento della trasmissione in cui tu ti vuoi fare molto male. Quando la notte si stringe a me, se il mio corpo c'è, Anima, i collage, bravi, ma sono dei Pooh che non ce l'hanno fatta. Poi Bella da morire, Homo Sapiens, ognuno di loro ha un poster autografato di tutti i cugini di campagna. Che dolce lei, la bottega dell'arte, ovvero dai Jethro Tull a Toto Cotugno. Io non ti chiedo più niente, Franco. Detto questo, però, qualcosa andrà pur salvato. Salviamo. Dai, salviamo. Io intanto ti do una buona notizia. Nel maggio del 77 una sentenza della Corte Costituzionale afferma che il governo non può porre il segreto militare sui documenti utili all'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Si aprono così nuove possibilità di indagine e il governo Renzi ha fatto un ulteriore passo in avanti, rendendo pubblici i documenti che riguardano le cosiddette stragi di Stato. Quindi, Franco, io ti do una buona notizia. Tu dovresti fare la stessa cosa con me. Che cosa mi fai ascoltare? Ti Franco? Faccio ascoltare una cosa molto, molto, oggi. Molto bella, perché questo è un disco, ma è anche un capolavoro. Lugano, addio, cantavi. Addio, Ivan Graziani. Lo vedi che ce l'abbiamo fatto, lo vedi che il capolavoro me l'hai tirato fuori. Sì, però intanto qui c'è stato il solito colpo di stato. Qui perché, c'è stato perché io non so, alla fine. Allora, io avevo scelto una canzone. E purtroppo, Franco, non hai avuto successo. In nove minuti c'è stata la riunione lì tra Gloria, Antonella, Ghiappini. Allora è successo questo. E quante volte ve l'ho detto? Abbiamo scelto un'altra canzone, anzi hanno scelto un'altra canzone, Guerrera, Migliaccio, De Remigis, ed è Gemelli diversi, dammi solo un minuto, e lo diciamo, nel 77 erano i Pooh a cantarla, oggi purtroppo, caro Franco, la cantano i Gemelli diversi, che va vogliamo bene. Fare? Ciao a tutti, ciao da Franco, ciao da Franco Schipani. Ciao da Alessandra Fiori, ci vediamo nel 1978. Cioè domani, ciao! Ciao! Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Fa male dirselo, ora che venti avversi soffiano, sulla nostra fiaccola si spengono. Sogni in un cassetto di un castello, per noi diventato bettola, come una favola, non si modifica, versa l'ultima lacrima, prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole e l'aria è gelida, resto solo alla mia tavola, pensandoti sento già i brividi, adesso abbracciami. Basta nascondersi dietro parole a volte inutili. Si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori credici. Ho il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano segnali epilogo, ricordi che dentro le tue lacrime nascondono l'ultimo fremito.